non riesco a non guardarti, amore. Mentre ti guardo mi riempi l'anima di gioia, con gli sguardi parlo un po' con te, innervosita ti nascondi un po', ma sei bella, ma sei bella, sempre bella, sempre bella. Parli con gli altri, sei distratta, fingi di capire, imbarazzata, parli, ridi, più ti trema il cuore. In questa festa in tanti siamo noi, vorrei toccarti ma lui è sempre lì, non ti molla, non ti molla. Un istante, un istante. E io con lei non so morire, mi stringe quando vede te, sa che per te io sto provando. Come prima, tu nel tuo mondo, io nel mio, immaginarti sempre. Parlo al vento, mi confido un po', è il messaggero dei pensieri miei, nel mio cuore, nel mio cuore. Resti bella, resti bella, rieccoci ancora. Stessi amici, tutto come prima. Il tuo vestito non è rosso come l'altra volta. Non sei sola, c'è sempre lui con te. Io nascosto fra gli amici miei, sto osservando, sto osservando la tua bellezza. Io con lei non so morire, mi stringe cuore.